Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, un'altra puntata di Focus Economia inizia, e allora la cronaca di questa giornata economico-finanziaria. Mentre l'OCSE ci dice che il peggio deve ancora arrivare, e qua l'OCSE oggi potrebbe essere accompagnata da un animale di nostra conoscenza, l'OCSE dice che il peggio deve ancora arrivare sul fronte della disoccupazione, soprattutto per Francia, Germania e Italia. Il testo dice che la gran parte della disoccupazione deve ancora arrivare nei prossimi mesi, nel 2010. C'è chi, tra virgolette, lo dico con il massimo rispetto e serietà, si diletta nei ragionamenti sulla decrescita, o meglio sul PIL, come non indicatore della salute, della felicità addirittura di un paese, dell'andamento economico vero, reale di una nazione o di un'area geografica. Avete già capito che ne parlammo con il più grande teorico della cosiddetta decrescita, quello che va sotto il nome di economia della felicità, e mi riferisco a Latouche. Chi si ricorda quella puntata ricorderà anche il mio scetticismo, però è giusto dare spazio a qualunque tipo di opinione, quindi parleremo anche di questo, perché ci sembra che da un lato lo stesso Sarkozy in Francia due giorni fa ha annunciato che vuole sostituire il PIL come indicatore dell'andamento economico con altri indicatori del benessere, della felicità, assolutamente encomiabile come iniziativa. Bisogna capire poi concretamente in che cosa si traduca, se no stiamo pettinando le bambole, come dicono da alcune parti in questo paese, cioè stiamo parlando così per parlare, mentre l'OCSE preannuncia un'ondata di disoccupazione appunto in Francia, Germania e Italia. Poi di OCSE chiaramente parleremo con chi ha redatto il rapporto, quindi responsabile dell'OCSE proprio per quello che riguarda le previsioni sull'employment, sulla disoccupazione nel 2009. Nel frattempo daremo anche la chiusura di borsa, adesso vi do l'andamento, è buona la borsa oggi. E poi nella seconda ora del programma ascolteremo alcune dichiarazioni, da quella di Warren Buffett che dice la crisi alle spalle, a ieri Ben Bernanke, e continueremo il nostro viaggio con gli imprenditori che stanno affrontando questa crisi, e grandi nomi. Vi ricordo, stiamo chiedendo vari personaggi celebri del mondo dell'impresa, intanto se anche loro sono sulla stessa barca, quindi i problemi loro sono gli stessi problemi dei piccoli artigiani, dei piccoli imprenditori, e se sì, come li stanno affrontando, e quindi che consigli possono dare, fermo restando che ogni attività è diversa dall'altra, che consigli possono dare agli imprenditori, ai commercianti, agli artigiani in ascolto. 349-238-6666 per i vostri sms, la borsa subito. Un punto e mezzo percentuale, rialzo di Milano in questo momento, Parigi più 1,6, Francoforte più 1,3, bene Londra più 1,7, l'America più 0,3%, è una crescita molto europea, quindi l'euro è a quota 1,47 nei confronti del dollaro, quindi di nuovo molto forte l'euro, o meglio molto debole il dollaro. Tra i titoli segnaliamo, con rialzi superiori alla media, Tenaris più 4,5, Mediobanca più 4,2, Buzzi Unicem più 3,80, Impregilo più 3,40, Autogrill più 2,80, il 2,6 lo guadagna Campari, ma anche Italcementi e A2A. Infine il 2% lo guadagnano Enel, Intesa San Paolo, Unipol e Fiat. Bene anche Generali, Ansaldo e Mediolanum e Geox e Unicredit, tutte in rialzo dell'1,7%, Mediaset, Parmalat, Bulgari, la Popolare di Milano guadagnano 1,5%. Unico titolo tra quelli maggiori a perdere qualcosa è STMicroelectronics, che cede lo 0,7%. Ancora il petrolio sopra i 71 dollari dopo il dato sulle scorte americane, ma noi immaginiamo, perché siamo cattivi, che vi sia anche l'effetto euro. Quando l'euro si rafforza, i paesi produttori, o meglio, quando il dollaro si indebolisce, i paesi produttori di petrolio, siccome lo vendono in dollari, tendono a spingere sul prezzo. Andiamo avanti, l'oro di nuovo ai massimi da 18 mesi, 1020 dollari l'oncia ha già preso l'oro, ne abbiamo parlato ampiamente anche ieri. Questo è un altro indicatore del ricorso a beni rifugio, investimenti rifugio come vengono chiamati. Il giorno dopo le dichiarazioni rese appunto ieri da Ben Bernanke, il numero della Federal Reserve, che la recessione è finita, l'America è la recessione è probabilmente passata, l'America è in ripresa, lo ha detto anche Warren Buffett, lo ascolteremo nella seconda ora, ha detto abbiamo superato la Pearl Harbor economica, ormai si sprecano le definizioni, Armageddon, Pearl Harbor, rischio del 29, catastrofe. Comunque sembra superata. Greenspan invece, l'ex numero uno della Federal Reserve, dice che il debito pubblico americano ha raggiunto un livello molto molto pericoloso, ma per i prossimi sei mesi le prospettive indicano una buona crescita senza rischi sul fronte inflazione. In effetti il disavanzo americano nelle partite correnti è sceso, ma meno delle attese, a 98 miliardi di dollari. La produzione industriale americana invece è salita più delle attese, più 0,8%, ed è appunto un buon dato, anche perché appunto è superiore a qualunque stima precedente. L'inflazione invece tutto sommato è in linea con le attese, più 0,4%. Tra l'altro, se si escludono il settore alimentare e il settore energetico, anche perché sono i due settori così che si muovono su variabili un po' intrinseche, tutte loro, mettiamola così, il tasso di inflazione americana è più 0,1 e anno su anno, cioè agosto su agosto 2008, è meno 1,5%, quindi deflazione vera e propria. E anche in Europa si può parlare di leggerissima deflazione, io parlerei di non inflazione, meno 0,2% ad agosto rispetto ad agosto del 2008. In Italia l'Istat ha rivisto addirittura a ribasso la stima sull'inflazione ad agosto, più 0,1% rispetto a un anno prima e più 0,3% rispetto a luglio. È la prima volta dopo 13 mesi di ribassi che l'inflazione tendenziale, quell'anno su anno, torna a crescere in Italia, siamo però allo 0,1%. Io parlerei appunto di non inflazione. Crescono soprattutto rispetto a luglio i trasporti e i beni energetici, mentre decrescono, quindi meno 12% rispetto a un anno prima, i beni energetici, meno 3% rispetto ai trasporti. L'inflazione acquisita, cioè se le prossime variazioni fossero pari a zero nei prossimi mesi, chiuderemmo l'anno con uno 0,8% di inflazione. E poi si diceva della stima dell'OCSE, che dice ci saranno 57 milioni di disoccupati a livello mondiale in più. Nel 2010 nell'area dei paesi OCSE il tasso di disoccupazione si avvicinerà al nuovo massimo storico dal dopoguerra. Questo lo dico perché così la finiamo con le idee che ci sia chi gode di queste notizie o chi gioca a fare il disfattista. Questo è l'OCSE, aderisce anche l'Italia, ha sede a Parigi, è una stima diffusa sul 2009-2010 ed è l'OCSE a dire che la disoccupazione sarà al massimo dal dopoguerra, 57 milioni di disoccupati nel 2010, pari al 10% dei paesi OCSE. Per quello che riguarda l'Italia, ripetiamo, dice attenzione, siccome i dati italiani sono vecchi, cioè sono relativi solo ai primi tre mesi del 2009 con una disoccupazione al 7,5%, in Germania, Francia e Italia la parte peggiore deve ancora arrivare, mentre in Irlanda, Giappone, Spagna e Stati Uniti si è già registrato un forte aumento dei disoccupati, e tant'è che in Spagna si è arrivati al 18%, in Francia siamo al 9,5%, in Germania al 7,7%. E allora gufo sia. E dicevamo che in questa situazione c'è chi si diletta sulla validità del PIL come strumento per misurare l'andamento dell'economia, come strumento per misurare realmente il benessere di un paese. E allora l'idea non è nuova, o meglio, Latouche ha scritto il libro recentemente, ma adesso vi facciamo ascoltare una dichiarazione di Robert Kennedy, che in tempi non sospetti era il 18 marzo 1968, pochissime settimane prima di essere assassinato, all'Università del Kansas, in piena campagna elettorale, Kennedy parlò del prodotto nazionale lordo contestandone la capacità di indicare la crescita economica. Too much and for too long we seem to have surrendered personal excellence and community value in the mere accumulation of material things. Our gross national product now is over $800 billion a year. Diceva Robert Kennedy, il nostro prodotto interno lordo ha superato gli 800 miliardi di dollari l'anno, ma dentro quel dato, dentro quel PIL, ci sono l'inquinamento dell'aria, la pubblicità delle sigarette, le ambulanze per sgomberare le strade dalle carneficine degli incidenti. Comprende questo PIL le serrature speciali per le nostre porte di casa e per le prigioni e per coloro che cercano di forzarle, comprende l'abbattimento delle sequoie e la scomparsa delle nostre bellezze naturali nel caos della deregolamentazione urbanistica. Dentro quel PIL c'è la produzione di napalm per il Vietnam, delle testate nucleari, delle auto blindate dalla polizia per fronteggiare le rivolte urbane. Comprende il fucile di Witham e il coltello di Speck, criminali del tempo, e i programmi TV che esaltano la violenza al fine di vendere giocattoli ai nostri bambini. For the joy of their play. It does not include the beauty of our poetry or the strength of our. E invece il PIL non tiene conto della salute dei nostri ragazzi, della qualità della loro educazione, dell'allegria dei loro giochi, non include la bellezza delle nostre poesie o la solidità dei nostri matrimoni, l'acume dei nostri dibattiti politici, l'integrità dei nostri funzionari pubblici. It measures everything in short. Non misura né il nostro ingegno, né il nostro coraggio, né la nostra conoscenza, né la nostra passione, né la fedeltà alla nostra patria. In altre misure, il PIL misura tutto, in altre parole, eccetto ciò che rende la vita degna di essere vissuta. Evocativo, emozionante anche sentirlo in originale, chiaramente dovevamo tradurlo, bellissimo il discorso di Kennedy, dentro il PIL ci sono delle cose, le testate nucleari, le sigarette, le ambulanze per le carneficine, le serrature per proteggersi dalla criminalità, le auto blindate per fronteggiare le rivolte urbane, il napalm per il Vietnam, ma non c'è l'impegno dei funzionari pubblici, l'allegria dei nostri bambini, la qualità della loro educazione, e né la fedeltà e la passione verso la patria. Io vorrei, mentre saluto Paolo Legrenzi, economista, anzi docente di psicologia cognitiva, mi scuso, all'Università di Venezia. Buonasera professore. Buonasera. Autore oggi di un articolo, di un commento su Sole 24 Ore. Vorrei ripetere quella frase che devo dire è bellissima. In altre parole, dice Kennedy, il PIL misura tutto eccetto ciò che rende la vita degna di essere vissuta. Bello, emozionante, ma c'è qualcosa di meglio del PIL, professor Legrenzi, per fare dei raffronti tra un'economia e un'altra? Beh, senza dubbio non possibile. Il punto di vista generale è il seguente. Paradossalmente, e io sono lo psicologo, è proprio l'esposizione eccessiva dell'economia come ottica con cui risolvere tutti i problemi del mondo, la famiglia, il benessere e così via, che porta poi alla condanna di uno strumento inventato dagli economisti, perché storicamente nessuno ha mai pensato che il PIL dovesse rappresentare le variabili che fanno sì che la vita sia degna di essere vissuta. Però, e quindi, molto prima del discorso di Robert Kennedy, gli psicologi insieme agli economisti si sono posti il problema di misurare il benessere soggettivo. Il PIL è un dato oggettivo, poi può domandare alle persone quanto gli sembra di stare bene. Implicitamente, una volta all'anno, il Sole pubblica le graduatorie di tutte le città italiane. Quando si dice che si campa, so, Belluno è molto in cima, mi ricordo, quando si dice che si campa meglio a Belluno, non so, che a Catanisetta, si intende esattamente questo, cioè tutte le variabili, essenzialmente, ordine pubblico, salute, qualità dell'aria, educazione e qualità della vita, ecco, sono tutte variabili non misurate dal PIL. Gli psicologi misurano questo stato di benessere soggettivo da almeno 50 anni e qui c'è il problema centrale che mostra appunto la differenza tra queste due misure, quella oggettiva e quella soggettiva. Come spiego nell'articolo, prendiamo un caso limite, il Giappone. Nel Giappone il PIL pro capite dal 58 ad oggi si è moltiplicato quasi di 7 volte. Non è che le persone stanno 7 volte meglio. Se lei fa la rilevazione, che tra l'altro in Giappone è stata fatta bene, perché hanno preso adesso non vado dentro le technicalities di come si fa la rilevazione. Ecco, comunque in buona sostanza, siccome sono misure fatte bene, lì il Giappone, generazione dopo generazione, non è più felice di prima. Quindi è ovvio quello che dice Robert Kennedy, perché se fosse vero che il PIL misurasse ciò che ci importa veramente, dovrebbero essere, non dico felici 6 volte, ma avere un benessere soggettivo almeno del doppio. Ciò non è. Allora, qui stiamo, vedo già tantissimi messaggi, adesso anche rispondiamo al 349-238-6666. Avrete letto sui giornali in questi giorni del dibattito, devo dire, innescato come cronaca anche politica, da non solo dalle dichiarazioni di vari economisti, ma dalla presa di posizione di Nicolas Sarkozy, presidente francese, che ha ricevuto un rapporto di un insieme di economisti famosissimi, Joseph Stiglitz, Paul Fitoussi, Amartya Sen, sul rapporto tra andamento economico e progressione sociale. E dopo averlo letto, Sarkozy ha detto: occorre mettere fine alla religione delle cifre per misurare il progresso economico di un paese. Occorre introdurre nelle statistiche sulla crescita i servizi che vengono forniti alla famiglia, il tempo libero e la qualità del servizio pubblico, che è un argomento inattaccabile da un punto di vista teorico. Vorrei capire poi come si fa a misurare, se non su base di interviste o di altri indicatori, il tempo libero o i servizi forniti alla famiglia. Ma restiamo sul tema, perché il PIL, lo dico a chi ce lo chiede, è la somma di tutto, del valore complessivo di beni e servizi prodotti in un paese, diciamo, di solito in un anno, e destinati al consumo finale. Gli economisti della felicità o i teorici della decrescita dicono: attenzione, questo PIL non misura niente, perché la filippina o la domestica che lavora per una persona avendo un reddito pro capite un quinto, un sesto, la metà del suo datore di lavoro, è più felice perché riesce a portare i soldi, magari a mandare i soldi a casa, perché riesce a integrarsi in una società, esce dalla fame, la sua felicità è nettamente più alta di quella del datore di lavoro che magari guadagna 5 volte di più, ma è stressato, è arrabbiato, soffre di molti problemi, e insomma, quando si va a fare il test sulla felicità, la filippina è molto contenta e il suo datore di lavoro è molto scontento. Fin qui ci siamo. Le chiedo però, professor Legrenzi, il PIL è un termometro. Ora, sì, noi sappiamo che se il termometro ti dice che hai 38 di febbre, non ti spiega perché ce l'hai, no. Ma tu puoi avere 38 di febbre e stare abbastanza bene, puoi avere 40, abbastanza male, puoi avere 40 di febbre e tutto sommato non stare così male perché hai meno dolori. Cioè, non ci dice nulla di più se non la temperatura corporea che abbiamo. Però quando io chiamo un medico, devo confrontare la mia temperatura, mi trovo in Gran Bretagna piuttosto che in Germania o in Italia, quella cifra lì ci dice che hai la febbre o non ce l'hai. Qualunque medico al mondo capisce se ho la febbre o no, poi andrà a investigare anche le cause, come sto. Ecco, mi sembra che il PIL sia un po' questo, è paragonabile con tutti i paesi. È questo il grande vantaggio del PIL, dibattito annoso che c'è anche sulle misure, diciamo, del, se vuole, del costo della vita, stessa cosa, perché non fare degli indicatori, ecco, il grande vantaggio che è uguale in tutto il mondo, misura, come ha fatto molto bene l'esempio del termometro, siccome il termometro, almeno quello dei nostri tempi, era basato sull'espansione del mercurio con la temperatura crescente, questa è uguale in tutto il mondo. Se lei abbandona questo criterio oggettivo e va nel soggettivo, non è una cosa nuova come sembrerebbe adesso Stiglitz così e così via, perché gli psicologi da mezzo secolo si sono posti questo problema. Il grande limite che lei ha è che deve essere molto locale nelle misurazioni, non può confrontare la felicità di quella filippina con la felicità di una filippina che sta nelle Filippine. Mi spiego, già quando lei misura la contentezza dei sistemi di trasporti in varie città italiane, in realtà fa una misura leggermente impropria. Dove funziona molto bene la misura soggettiva dello stato di benessere soggettivo è nello stesso posto, sulla stessa variabile, con diversi tempi. Mi spiego, capisce? No, io capisco, cioè lei dice si può trovare, adesso cerco anche di semplificare la sua analisi, si può trovare un indicatore che vada a misurare la felicità, il benessere, il senso, non la felicità, la ragione, usiamo benessere che è meglio, la felicità è un'altra cosa, il benessere che io però lo si può fare localmente, cioè prendo la Lombardia e confrontando periodi diversi, cioè chiedo agli stesse persone, poniamo. Bravo, un campione rappresentativo di Milano, lei è più scocciato o no della qualità dell'aria, del traffico a Milano? E vado a misurare questa cosa. Molto buona. E vado a misurare questa cosa nel corso degli anni, però utilizzando sempre la stessa area, perché non diventa confrontabile. Il dato che ottengo è qualitativo ma non quantitativo. Non può confrontare anche su una cosa molto specifica che è contentezza o scontentezza, per meglio dire, del traffico, dell'inquinamento, il newyorkese con milanese. Esatto, anche perché se lei chiede come va il traffico, com'è il traffico in una città di provincia, può bastare, non può farlo. E lo paragona a quello di New York, abbiamo due parametri completamente diversi. Restando sul tema, perché ripeto, non è solo un dibattito così, a mio avviso anche interessante, ma teorico. Sarkozy ha proposto di introdurre delle misure diverse dal PIL o integrative del PIL per misurare l'andamento economico. C'è un teorico di tutto questo, perché come sempre le teorie hanno anche dei padri, ed è Serge Latouche, professore di scienze economiche all'Università di Parigi Sud, autore di un libro breve trattato sulla decrescita serena. Da noi lo pubblica Bollati Boringhieri, l'abbiamo avuto ospite. Vi faccio riascoltare un passaggio su che cosa vuol dire, secondo Latouche, introdurre una economia della decrescita. Si tratta prima di tutto di uno slogan per significare fortemente la necessità di una rottura, non con la crescita, che sicuramente certe cose devono crescere, ma con la società di crescita, la nostra società che è fagocitata da una economia di crescita, detto un'economia che non ha più come fine che la crescita per la crescita, far crescere all'infinito il prodotto e per questo far crescere il consumo e nel frattempo far crescere i profitti e ancora di più i rifiuti. È chiaro che una società che è organizzata sulla crescita all'infinita finisce per incontrare le mura dei limiti del pianeta. Se vogliamo essere rigorosi, dovremmo parlare di acrescita, come si parla di ateismo, e precisamente si tratta di uscire di una fede, di una religione, la religione della crescita, la fede nel progresso all'infinito, nell'economia. Per questo si tratta di uscire dall'imperialismo dell'economia e di ritrovare, di inventare un futuro sostenibile, di riappropriarsi del nostro destino. Così Serge Latouche. Vedo molti messaggi, c'è anche chi dice oggi parlate di aria fritta, ma insomma non so se dobbiamo sempre fare l'elenco dei dati o delle previsioni che poi spesso sono sballate degli organismi internazionali o ascoltare le dichiarazioni dei politici. Secondo me il tema c'è tutto, e ripeto, c'è anche perché lo propone lo stesso Sarkozy e perché molti lo utilizzano. Professor Legrenzi, abbiamo chiarito che il PIL è uno strumento imperfetto come il termometro, che non è, però altri non ne abbiamo. Di dati per illustrare concretamente questo concetto. Ecco, un attimo, voglio passare alla seconda domanda, mi scusi, perché qui c'è un altro aspetto. I teorici della decrescita dicono, in sostanza, non si può continuare a crescere all'infinito e bisogna iniziare a ragionare su un PIL che cala o perlomeno che non sale. Due obiezioni a cui le chiedo di rispondere dopo il metro e la pubblicità. Prima, non esiste, a mio avviso, uomo politico che possa sostenere 5-8 anni di decrescita e spiegare al corpo elettorale che non puoi cambiare la macchina, che devi andare in viaggio meno, che i tuoi figli non possono frequentare quelle scuole, che non si può comprare quel tipo di abbigliamento, senza avere un problema di consenso, per cui o sei una dittatura oppure le elezioni le perdi immediatamente. Secondo aspetto, io non vorrei che dietro questa decrescita si nascondesse tutto un gioco un po' fumoso, ma che alla fin fine non tiene conto del fatto che l'essere umano è contento di anche crescere e di avere di più. ...17:37, allora qualche vestale e tutelare dell'ortodossia del programma dice, ma insomma questo è un ragionamento, no, attenzione, di tutto si può parlare. Stiamo parlando dell'idea che da più parti prende piede che il PIL non serve a nulla per capire come va l'economia di un paese, osserva molto poco, e soprattutto per sapere quanto stiamo bene. Affascinante come tema, Sarkozy politicamente lo usa, vedremo se poi arriverà anche in altri paesi, noi cerchiamo di mantenerci ai fatti. Allora, professor Legrenzi, la decrescita può anche essere una bella cosa, nel senso che se tu hai più tempo per stare con i figli, con gli amici, con la moglie, con l'amante, con chi cavolo vuoi tu, va benissimo, e starai più nei parchi, meno al lavoro. Il problema, a mio avviso, è politico, cioè qua per 5-10 anni devi spiegare all'opinione pubblica che devono guadagnare meno, che la vacanza la fai di meno, che la macchina la cambi di meno. Ora io lo voglio vedere un governo che è capace, se non è una dittatura, di reggere 6-7 anni di opinione pubblica con il consenso al minimo. Risposta, lei ha perfettamente ragione. Forse il contributo più stabile dato dagli psicologi, cioè dal premio Nobel Kahneman, uno psicologo ha preso il premio Nobel Economia nel 2002, è la seguente: le persone soffrono di più a scendere di quanto non godono a salire, soprattutto con le variabili economiche, ma anche con altre variabili, cioè il piacere dell'incremento è inferiore alla sofferenza di un pari decremento. Quindi se io perdo 1000 euro di guadagno, poniamo, al mese, soffro, esatto, molto di più che non guadagnare 1000 euro in più al mese. A dimostrazione che non è un dibattito sull'aria fritta o un dibattito accademico, nel senso avulso dalla realtà economica, le do un dato molto semplice, empirico. L'inflazione è parliamo dell'Italia, possiamo parlare anche dei paesi OCSE. Noi abbiamo una crisi economica per cui l'inflazione è zero, o un po' più, sì, di zero. Zero. Aspetta, ecco. Gli stipendi sono comunque cresciuti del 3%, cioè di tre volte perlomeno l'inflazione, supponiamo che sia l'1. Ecco, se in passato, faccia conto quando l'inflazione era 10-15%, gli stipendi non dovevano crescere il 45%. Cosa è questo problema? Problema pratico. Le persone sono molto resistenti a scendere negli stipendi a valori nominali, cioè se lei guadagna un tot al mese è molto scontento se il suo stipendio scende. Mi faccio vedere se ho capito, anche se io ti spiego che l'inflazione è, poniamo meno 10, e che quindi, se il tuo stipendio cala di un 10%, esatto, hai lo stesso potere d'acquisto, a te quando vedi in busta paga il 10% in meno ti girano, diciamo, esatto, le scatole. No, mentre se questo sono stati fatti ancora negli anni 30, quando era realistico questo. Nella crisi anni 30, che talvolta viene impropriamente paragonata a questa, gli stipendi sono saliti del 10-15% perché c'era una deflazione fortissima, cioè le robe costavano di meno. Gli stipendi restavano uguali di quelli che lavoravano, perché la quota di disoccupati allora è stata ancora più alta. E Keynes tratta questo tema nel suo libro del 36, per dirle che non stiamo. Ecco. Ha dei problemi empirici questo, perché lei si trova di fronte a una profonda ingiustizia. Ci sono più disoccupati e gli occupati stanno meglio di prima. Sì, è chiaro anche che a giudicare dal rapporto OCSE di cui parleremo tra qualche minuto, dire, mi sembra che il tema della decrescita, sì, io capisco tutto, però sì, ce lo stiamo già vivendo sulla pelle la decrescita, esatto, se va avanti così. Può avere ragione chi dice, ma così, capisce? Nel senso che in realtà ce l'abbiamo già di fronte. E non mi sembra che ci sia tutta questa allegria in giro. Dopodiché è importante quanto lei dice, è fondamentale anche, se ne è occupata Deborah Rosciani spesso in Salvadanaio, cioè quando io guadagno ho un godimento che è inferiore alla delusione, alla sofferenza che ho quando perdo. Quindi i guadagni sono sempre dati, sì, ti rendono più felici gli incrementi di guadagno, ma non quanto ti rende infelice il perdere in borsa oppure avere uno stipendio più basso. Sembra un po' la logica del bambino, professor Legrenzi, cioè se è un bambino tu dici di no, un disastro, lo dico anche per esperienza. Se invece tu gli dici di sì, va bene, contento, ma lo dà quasi, non dico per scontato. Dopo tornare indietro è dura. E tornare indietro è dura. Allora, l'idea cos'è? Che è meglio, più che la decrescita, avere una non crescita, una crescita bassa e lavorare su altre variabili, quelle sì non misurabili, i servizi pubblici, certo, la qualità dell'aria, la sicurezza delle città? Certo, non c'è dubbio. Lei potrebbe, siccome se vogliamo adesso tornare a ragionare un po' in ipotesi, senza avere una dittatura, quello che le persone, ci sono molte ricerche a questo riguardo, accettano, è una catastrofe generalizzata, mi spiego? C'è troppa pollution, c'è troppo inquinamento. Benissimo, nessuno va più in auto. Si ricorda quando noi abbiamo vietato l'uso dell'auto? Forse, non so, la mia generazione si ricorda meglio. Negli anni 70 si andava in bici. Allora, se è per tutti, allora le persone possono anche accettarlo. Le persone, oltre al fenomeno descritto prima, su cui non ritorno, sono molto attente ai confronti. Non accettano che aumenti per uno o non per quell'altro. Allora, se lei dice, sì, qui non si va più in auto, basta, fine, chiuso. E lì introduciamo il concetto di povertà relativa. La povertà sopra una certa soglia non è tanto un indice economico, un elemento economico, è anche un elemento di raffronto. Se il tuo vicino fa delle cose che tu non riesci a fare economicamente parlando, tu ti senti più povero, anche se magari il tuo stipendio è rimasto uguale. Grazie, professor Legrenzi, perché era importante chiarire anche la bellezza. È giusto discutere di tutto, ci mancherebbe, perché le crisi servono anche a questo, a rimettere in discussione i paradigmi, i valori e tutto un insieme di cose, la sobrietà, però anche essere realistici, se no si finisce con la famosa frase dategli le brioche. Insomma, qua il problema ce l'abbiamo di occupazione vera, e adesso ne parleremo di decrescita vera. Poi cambiare i modelli si può sempre con realismo e tenendo conto che la classe politica deve governare con il consenso, se no non è, siamo con un consenso comunque diffuso, se no non è democrazia. Volete risentire quell'ultimo passaggio di Kennedy? Ve lo faccio sentire, poi passiamo alla borsa. È obiettivamente bello, lo facciamo sentire, diciamo, in lingua originale, in il discorso di Robert Kennedy, che è uguale a Bob, è inutile che scrivete che sono due cose diverse, quando dice che il PIL non tiene conto della salute dei ragazzi, della qualità dell'educazione, dell'allegria dei loro giochi, non include la bellezza delle nostre poesie, la solidità dei nostri matrimoni, l'acume dei nostri dibattiti politici, l'integrità dei nostri funzionari pubblici, non misura né il nostro ingegno, né il nostro coraggio, né la nostra conoscenza, né la nostra passione, né la fedeltà alla nostra patria. In altre parole, misura tutto eccetto ciò che rende la vita degna di essere vissuta. Yet the gross national product does not allow for the health of our children, the quality of their education, or the joy of their play. It does not include the beauty of our poetry, or the strength of our marriages, the intelligence of our public debate, or the integrity of our public officials. It measures neither our wit nor our courage, neither our wisdom nor our learning, neither our compassion nor our devotion to our country. It measures everything in short, except that which makes life worthwhile. And it can tell us everything about America, except why we are proud that we are American. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Non possiamo continuare sul tema di ciò che misura il benessere, la felicità e di quanto sia fallibile il PIL. Le nostre idee le abbiamo espresse, a tutti i punti di vista le abbiamo ascoltati. È verissimo che se un ponte crolla, che se c'è un terremoto, ahimè, come in Abruzzo, e che se c'è qualche altra disgrazia, il PIL sale. Questo è uno dei paradossi di un indicatore. Adesso però parliamo di borsa, che oggi sale un punto e mezzo percentuale, dopo un po' di torpore sui mercati oggi è netta la strada del rialzo. Parigi più 1,6, Francoforte più 1,3, Londra più 1,4, l'America mezzo punto percentuale di rialzo, con un euro sempre vicinissimo a quota 1,47, cioè stiamo tornando a livello di un euro, un dollaro e mezzo per un euro, livelli molto molto alti. Livia Zancaner, Radio Colli, Sole 24 Ore. Buonasera. Buonasera. Allora Livia, per quello che riguarda i titoli, partiamo subito da Tenaris, più 4,5%. Sì, allora bisogna sottolineare che Tenaris dalla chiusura del 3 settembre ha guadagnato oltre il 20%. Allora, gli scambi anche oggi sono stati oltre la media, infatti sono stati scambiati 8,4 milioni di pezzi contro una media giornaliera dell'ultimo mese di 3,9 milioni di azioni. Quindi innescare gli acquisti nei giorni scorsi, secondo gli operatori, sono state le indicazioni positive e incoraggianti sulle prospettive del comparto emesse dall'Investor Day dell'8 settembre. Da una parte, infatti, secondo gli operatori, appunto, sono in vista nuovi contratti dalle compagnie nazionali di paesi produttori di petrolio, e dall'altra invece vi sono segnali di calo per quanto riguarda le scorte dei tubi provenienti dagli Stati Uniti. Ancora, sì, non vorrei che ci fosse qualcos'altro dietro Tenaris, ma non abbiamo visto elementi né anche voci in questo senso. Il titolo ormai viaggia a 12 euro per azione. Mediobanca è la migliore tra i bancari e è rimasta per molto tempo oggi la migliore dei titoli maggiori, più 4,2%. Sì, allora in questo caso c'è una notizia societaria, nel senso che venerdì si riuniranno il patto di sindacato e il CDA per esaminare i conti dell'esercizio 2008-2009. Per quanto riguarda invece eventuali disdette o rinnovo dell'accordo parasociale, l'incontro è rinviato a fine mese, e proprio nella riunione dei soci di fine mese potrebbero giungere anche delle indicazioni in più per quanto riguarda il dossier relativo alla banca Saloppenheim. Mm. Sì, e questo appunto fa salire il titolo, poi vedremo venerdì. Bene, oggi tutti i settori: cemento, Buzzi Unicem più 3,4, cemento costruzioni più 3% in pregilo, e Italcementi più 2,4%. Lì c'è stato un giudizio di Goldman Sachs positivo per tutto il comparto, e quindi si spiega anche il rialzo italiano. Ancora Fiat più 2,1%, tocca di nuovo i 9 euro per azione. Marchionne oggi, numero uno di Fiat, era a Francoforte, una toccata e fuga, ha confermato il target per il terzo trimestre 2009 e ha detto che il 2010 sarà un anno duro, ma non come il 2009. Sentiamo. Per quanto riguarda i motori, i cambi, piattaforme, la divisione di responsabilità per chi produce cosa, in quale parte del mondo, sono cose estremamente importanti, le stiamo analizzando in dettaglio adesso, avremo una risposta per la fine di ottobre, presentarla a novembre. Credo che al momento che ritorneremo a parlare della Chrysler avremo anche la possibilità di parlare di stabilimenti italiani. Credo che ci siano notizie piuttosto buone. Così Sergio Marchionne in merito a Chrysler, dopo alcuni timori espressi anche da alcuni quotidiani che dicono sarà tutta in salita l'operazione Chrysler, però Marchionne ha detto il piano arriverà a novembre e con Chrysler arriveremo a 6 milioni di unità prodotte, di macchine prodotte. Poi Marchionne ha chiesto un rinnovo degli incentivi auto a livello europeo, ha detto altrimenti sarà un disastro per il settore auto, e lo stesso ministro Scajola poco fa ha detto che la prosecuzione degli incentivi al settore auto è una cosa auspicata e auspicabile. Questo per quello che riguarda Fiat. Altri titoli oggi, Livia Zancaner, tra i migliori e peggiori in assoluto troviamo per esempio Finarte, va bene, più 24%, Ross più 20%, Telecom Italia Media più 15%. Telecom Italia Media. Sì, allora Telecom Italia Media ha trainato in linea di massima il comparto media Piazza Affari, grazie anche alla buona intonazione del settore a livello europeo. Allora, per quanto riguarda Telecom Italia Media in particolare, allora, secondo la stampa, l'advisor Merrill Lynch avrebbe ricevuto nei giorni scorsi delle offerte molto concrete per tutto il pacchetto e quindi per l'intera società. La controllante però Telecom Italia ha smentito di aver ricevuto queste offerte. E allora, secondo gli analisti, una cessione dell'intera società avrebbe un impatto favorevole su Telecom Italia, perché verrebbero deconsolidate le perdite nel bilancio della controllante. Però contestualmente gli analisti hanno mantenuto i giudizi negativi sul titolo, ritenendo che in passato erano già circolate indiscrezioni di questo tipo, ma poi erano state ritenute infondate, quindi alla fine non si erano verificate. Altro titolo, Campari più 2,16%, il rimbalzo dello spritz? Sì, allora Campari ha guadagnato oltre... Non penso che sia questo. No, comunque Campari ha guadagnato oltre il 10% dal 9 settembre. E questo grazie ai giudizi positivi arrivati nei giorni scorsi e anche oggi dagli analisti. Quindi la settimana scorsa il titolo era stato premiato dalla revisione al rialzo del giudizio da parte di Exxon BNP Paribas, mentre oggi allora Kepler ha alzato il prezzo obiettivo a 7,3 euro da 6 euro, mantenendo raccomandazione comprare, mentre un'altra società, Evolution Securities, ha alzato la raccomandazione sempre a comprare, quindi innescando gli acquisti sul titolo. Ecco, giustamente alcuni ascoltatori fanno notare che sono tornati, è tornato il profluvio di target price, raccomandazioni delle banche d'affari che nel frattempo hanno creato il crack finanziario, la recessione che stiamo affrontando. Sono d'accordo con voi. Dopodiché dobbiamo anche citarle ogni tanto. Io ripeto sempre, prendetele con beneficio di inventario. Quando una banca dà un target price non riusciamo mai a sapere, c'è quindi un prezzo obiettivo, delle indicazioni, quanti titoli ha in pancia lei, se ha eventuali conflitti di interesse, per cui loro li danno. Io consiglio sempre di lasciarli agli operatori del settore e basarsi su altre regole. E Steam Microelectronics scala anche qui per un target, per un obiettivo per un giudizio di Goldman Sachs che è stato rivisto in negativo. Grazie a Livia Zancaner, Radio Cori Sole 24 Ore. Parlate di PIL e deficit, ma non tenete conto del vincolo del deficit PIL. State parlando di fregnacce fuori dalla realtà. Complimenti per il francesismo. In realtà no, il rapporto deficit PIL, se immagino si riferisca a quello europeo, è un vincolo che tutti i paesi stanno ignorando. Con la crisi che c'è, la Germania va a fare il 5% di deficit, l'Italia pure, forse anche di più. Un po' meno la Francia, ma insomma se c'è un soldato scomparso in azione è proprio Maastricht in questo momento. Invece le brutte notizie oggi arrivano dall'OCSE, che ha delle stime oggettivamente pesantissime sull'andamento dell'occupazione nei paesi aderenti, in particolar modo in tre paesi: Francia, Germania e Italia. Lo dicevamo in apertura, è la notizia più forte di oggi, ossia 57 milioni di disoccupati arriveranno nel 2010, mai così alto il dato dal dopoguerra, che questa è veramente, si è beccata il nostro gufo in apertura, e ancora in Italia, Francia e Germania il peggio deve ancora arrivare. Allora ne parliamo anche dopo il GR, però vorrei chiedere subito al responsabile Dipartimento Occupazione dell'OCSE in collegamento con noi da Parigi, professor Stefano Scarpetta, buonasera. Buonasera. Perché Germania, Francia e Italia avranno dati, il peggio insomma deve ancora arrivare? Ma dunque, la prima cosa da sottolineare è che la disoccupazione è aumentata già in tutti i paesi OCSE. Nel mese di luglio, l'ultimo mese per cui abbiamo i dati, il tasso di disoccupazione OCSE è arrivato all'8,5%, che è il tasso più elevato dall'inizio degli anni 70, e che significa qualcosa come 15 milioni di disoccupati in più a luglio 2009 rispetto alla fine 2007. La disoccupazione è aumentata soprattutto in alcuni paesi non europei, come negli Stati Uniti o anche in altri paesi europei come per esempio l'Irlanda e la Spagna, dove il tasso di disoccupazione è aumentato enormemente. Nei paesi d'Europa continentale e in Italia la disoccupazione è aumentata più lentamente, ma è in aumento. Quindi mi sembra che lei stia descrivendo quasi un fenomeno inerziale, da noi è arrivata dopo, ma l'intensità sarà la stessa. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Dopo aver parlato in questa puntata della proposta di Sarkozy di utilizzare altri indicatori al posto del PIL per misurare il benessere e anche immagino la felicità degli individui, la borsa che ha chiuso bene in tutta Europa, 1,5% di rialzo in generale, stiamo affrontando il tema dell'occupazione o della disoccupazione, per meglio dire, alla luce del rapporto OCSE di oggi. Ricordo che si fosse appena messo in ascolto che l'OCSE prevede per l'anno prossimo un picco storico, cioè di disoccupati mai così tanti dal dopoguerra, 57 milioni, il 10% complessivo, e soprattutto, visto che parliamo anche di Italia, dice che per Germania, Francia e Italia il peggio deve ancora arrivare. Siamo in collegamento con Parigi, con il responsabile del Dipartimento Occupazione dell'OCSE, il professor Stefano Scarpetta. Le chiedo, lei ci ha spiegato che insomma l'Italia, Francia e la Germania, come per inerzia, non hanno ancora subito l'ondata di disoccupati. Questo vuol dire che voi ritenete la disoccupazione una specie di livella, cioè che non ci sia differenza tra paese e paese, per cui tutti se la beccano prima o poi, alcuni un po' prima, altri un po' dopo? No, diciamo che questa è stata una crisi mondiale, una crisi generalizzata. Alcuni paesi sono entrati in recessione prima di altri, anche perché avevano degli disequilibri. Appunto, i paesi che ho citato prima, la Spagna, l'Irlanda e gli Stati Uniti, avevano una bolla sul mercato immobiliare che, quando appunto è scoppiata, ha portato a fortissime riduzioni occupazionali in quel settore, però poi la crisi si è espansa anche ad altri settori e si è espansa anche ad altri paesi. L'effetto di questa crisi si è trasferito anche sui paesi europei con un certo ritardo, e abbiamo visto appunto la disoccupazione dei paesi europei aumentare negli ultimi mesi. Dunque, le nostre previsioni sono state finalizzate, diciamo, sui dati di giugno. Da giugno ad oggi ci sono state una serie di notizie positive, cioè gli indicatori macroeconomici, leading indicators come li chiamiamo, ci fanno sperare bene che la ripresa economica potrà arrivare forse prima di quanto non ci attendessimo soltanto qualche mese fa, e tutto questo probabilmente lascia ben sperare anche su quello che accadrà sul mercato del lavoro. Però quello che sappiamo, guardando anche a recessioni precedenti, è che la creazione di lavoro e quindi la riduzione della disoccupazione tende a intervenire soltanto con un certo ritardo, 2-3 trimestri più tardi rispetto alla ripresa economica. Anche sulla base degli ultimi indicatori, le nostre previsioni che sono state presentate all'inizio di settembre suggeriscono forse una ripresa economica che comincia prima, ma che sarà modesta per un certo numero di mesi a venire. Ci sono una serie di fattori ancora che non solo creano forte incertezza rispetto a come andrà l'economia mondiale, l'economia dei paesi OCSE, ma che fanno pensare che la ripresa, anche se dovesse intervenire prima, sarà comunque abbastanza modesta. E questo tipo di ripresa non è sufficiente effettivamente per intaccare la disoccupazione o anche per ridurre la possibilità che la disoccupazione aumenti. Quindi semplicemente per dire che le nostre previsioni portavano l'area OCSE a un tasso di disoccupazione a due cifre, vicino al 10% verso la fine del 2010, alla luce degli ultimi indicatori forse non si arriverà a questa soglia del 10%, ma si arriverà a qualcosa di vicino, 9,5% diciamo, e magari un po' prima, ci si arriverà alla metà degli anni del 2010 piuttosto che verso la fine. Comunque il problema che sottolineiamo nel rapporto è che è vero in generale per i paesi OCSE, ma devo dire nella maggior parte dei paesi individualmente, con diversa intensità, è che abbiamo una crisi occupazionale, perché appunto lei, come ricordava, il tasso di disoccupazione OCSE è già a livelli storicamente alti, è il tasso più elevato che abbiamo visto all'inizio degli anni 70, ci sono già 15 milioni di disoccupati in più rispetto alla fine del 2007, ce ne attendiamo altri, magari non i 10 che sono le nostre previsioni, ma sicuramente altri. E quindi il problema vero è adesso concentrarsi su questa dimensione della crisi economica, cioè la dimensione sociale, e con degli interventi mirati che permettano da un lato di aiutare tutti quelli che hanno perso il lavoro con un sostegno di reddito e dall'altro fare di tutto per cercare di reintegrare nell'occupazione appena l'economia riparte. Questa secondo me veramente è la scommessa di oggi. L'attenzione dei leader mondiali è passata dai mercati finanziari alla crisi economica, adesso veramente bisogna occuparsi in maniera attenta alla crisi sociale che ne è derivata. Dunque, è innegabile che la crisi, l'abbiamo raccontato più volte, si sia spostata dal fronte finanziario, quindi di tenuta sistemica del mondo bancario, il mondo del credito, alla parte economica, e quindi calo della produzione industriale, dei fatturati, degli utili, e adesso terza fase che tutti temevamo e purtroppo sta avvenendo, problema occupazionale. Questo è innegabile, così come è innegabile che i mercati finanziari reagiscano prima ai segnali di ripresa, che poi arriva l'economia e che poi arriva l'occupazione. Cioè potremmo dire che la disoccupazione cresce più tardi ma resta più a lungo rispetto al ciclo economico, e fin qui non ci piove. Quello che mi lascia perplesso, poi arriviamo alle politiche economiche, professor Scarpetta, non è per polemizzare, è insomma questa idea che tutti i paesi si beccheranno la stessa disoccupazione. Lei ricordava giustamente che l'Irlanda, la Spagna hanno avuto un problema enorme di bolla immobiliare, di bolla finanziaria, di lavori costruiti su questo tipo di finanza e di guadagni e redditi costruiti su una speculazione del mattone. Beh, non tutti i paesi sono messi nello stesso modo. La Germania è molto più manifatturiera, la Francia ha una domanda interna che tiene e politiche sociali molto molto forti. L'Italia stessa è molto agganciata all'export, alla cassa integrazione, quanto regge. Cioè, è possibile che la disoccupazione, diciamo, colpisca tutti come, non so, come un'influenza, come una febbre spagnola che non va a distinguere tra paese e paese, struttura produttiva, ammortizzatori sociali, bolla o non bolla? Ma mi faccio chiarire a questo punto che è fondamentale. La disoccupazione è in aumento, non è in aumento nella stessa entità in tutti i paesi, assolutamente. Il tasso di disoccupazione in Spagna è già al 18,5% e potrebbe avvicinarsi al 20%. Bisogna considerare due cose qui: il punto di partenza, cioè qual era il tasso di disoccupazione prima della crisi, e qual è il punto di arrivo, cioè il picco della crisi. In paesi come gli Stati Uniti il tasso di disoccupazione era meno del 4,5%, adesso è già al 4,7%, adesso è al 9,7%. Quindi c'è stato un forte aumento in questi paesi che è proporzionalmente maggiore di quello che ci si attende in paesi come la Germania, come l'Italia, come la Francia. Questi sono paesi in cui il tasso di occupazione era già più elevato rispetto per esempio agli Stati Uniti prima della crisi, in cui l'aumento in termini di punti percentuali o anche in termini proporzionali è sicuramente inferiore. Quindi è vero che i paesi europei in questa particolare crisi vedranno un aumento della disoccupazione, purtroppo credo che sia difficile pensare che possano evitarla completamente, ma l'aumento della disoccupazione è sicuramente inferiore che in altri paesi in cui c'erano due fenomeni, una crisi interna, cioè come appunto la bolla immobiliare che si è accumulata a quella che è diventata poi una crisi generalizzata, una crisi mondiale. Quindi è stata una crisi più importata, se vuole, e che ovviamente poi dipende molto, come lei sottolineava, dalla struttura economica. Una cosa che ha ridotto, diciamo, l'aumento della disoccupazione in un paese come la Germania, ma anche l'Italia e la Francia, è stato giustamente gli interventi che sono stati fatti per proteggere parte dell'occupazione tramite in Italia la cassa integrazione, in Germania il Kurzarbeit, che è uno schema di appunto sussidio per la riduzione del tempo di lavoro, o quello che in Francia è lo chômage partiel. Queste sono state misure che sono state introdutte o rafforzate inizialmente durante la crisi e che hanno permesso alle imprese di mantenere una parte della forza lavoro e che quindi implicitamente hanno ridotto cioè la perdita di occupazionale e l'aumento della disoccupazione. Questi sistemi a breve termine sono stati efficaci nel ridurre, se vogliamo, l'impatto immediato in termini occupazionali della crisi. Sono sistemi costosi e quindi se la crisi adesso dovesse risolversi e ci dovessimo trovare di fronte a una ripresa economica, probabilmente questi paesi europei che sono intervenuti massicciamente con questo tipo di strumenti potrebbero vedere la disoccupazione non aumentare tanto quanto altri paesi. Quindi non è vero che la disoccupazione dovrebbe aumentare in maniera indiscriminata della stessa proporzione, però un aumento della disoccupazione è purtroppo allora, da attendersi un po' generalmente. Quando piove si bagnano tutti, io sono un po' prosaico nella mia sintesi, poi dipende che ombrello hai, in che punto ti trovi e da quale livello, diciamo, quanta strada devi fare per capire quanto ti devi bagnare. Se ho ben capito, lei dice la disoccupazione in più se la beccheranno tutti, il livello che si toccherà invece sarà molto diverso. In Spagna siamo già al 18%, si rischia di arrivare al 20%, in Italia dovremmo stare sul 10%, però la beccheranno tutti. Importanti le politiche messe in campo, e di questo vorrei parlare dopo le informazioni per chi è in viaggio. L'ultima domanda che ho per lei, perché qui facile dire le politiche sull'occupazione, ma abbiamo deficit che sono andati fuori da ogni controllo in tutti i paesi, debiti alti in Italia, insomma, il sentiero è molto stretto. The financial and economic crisis has quickly developed into a jobs crisis. La crisi economica e finanziaria si è evoluta velocemente in una crisi dell'occupazione. Da un tasso di disoccupazione del 5-6% registrato nel 2007, il più basso in 25 anni, il tasso di disoccupazione registrato dall'OCSE nel luglio del 2009 è salito all'8,5%, un dato corrispondente ad un aumento di circa 15 milioni di persone di disoccupati. 15 million unemployed in this period, you know, from 2007. E questo solo dal 2007 a metà 2009. Ripeto, 15 milioni di persone in più sono senza lavoro e sfortunatamente sembra che aumenteranno ulteriormente. Come nelle precedenti crisi economiche particolarmente severe, le perdite più pesanti di posti di lavoro si registrano all'interno dei gruppi già svantaggiati: giovani, immigrati, minoranze etniche, donne e i soggetti con contratti temporanei o atipici. Tutte queste sono le categorie che prima di altre escono dal mondo del lavoro in tempo di crisi. La ripresa è all'orizzonte. Vediamo segnali positivi in alcune economie. La ripresa sarà modesta inizialmente e dal passato abbiamo imparato che la ripresa dell'occupazione è sempre qualche passo indietro rispetto a quella della produzione. Non è un'intuizione, è ciò che abbiamo imparato dalle crisi precedenti e, ricordo, non si è mai vista una crisi come quella attuale. La storia ci dice dunque che più velocemente si sono persi posti di lavoro, più lentamente ci sarà la ripresa dell'occupazione. Il tasso di disoccupazione dell'OCSE probabilmente continuerà a crescere anche nel 2010 e potrebbe avvicinarsi al 10%. Questa percentuale si traduce in 57 milioni di disoccupati in totale. Così anche il Gurria, che è segretario generale dell'OCSE, e ha risposto anche a chi ci chiede: ma quali saranno le figure professionali e i settori più colpiti da questa ondata che l'OCSE prevede di disoccupazione? Lo avete sentito, gli immigrati, le donne, i giovani, tutti quelli che hanno un contratto, diciamo, a tempo determinato, un contratto non forte, insomma, le categorie più deboli. Ecco perché è importante, ed è l'ultima domanda che ho per il responsabile economico del Dipartimento Occupazione dell'OCSE, professor Stefano Scarpetta, è importante capire che politiche devono attuare i governi e che cosa voi suggerite. C'è un punto però fondamentale, io non voglio difendere la politica necessariamente, però c'è una marea di liquidità in giro. Ci sono i tassi allo zero, i deficit che hanno rotto ogni barriera di Maastricht e non solo, e prima o poi bisognerà rientrare da questa somma di miliardi buttati dentro per salvare la tenuta del sistema finanziario. Come spiega molto bene oggi Nouriel Roubini, i governi hanno due possibilità: o a un certo momento inizieranno ad aumentare le tasse e a ridurre le spese o a ridurre la spesa pubblica, o se no rischiano di beccarsi inflazione e nuove bolle speculative. Il problema è che aumentare le tasse con un'economia che appena sta lentamente tornando a ripartire vuol dire strangolarla nella culla e vuol dire perdere consenso elettorale. Le chiedo: da dove dovrebbero arrivare secondo voi i soldi, vista la situazione delle finanze pubbliche mondiali e nel caso specifico italiana, per le politiche sull'occupazione? No, questa è una domanda fondamentale, perché ovviamente le risorse disponibili sono limitate, come lei sosteneva giustamente, i deficit pubblici sono aumentati in maniera considerevole, in maniera con casi addirittura vertiginosa, e quindi non ci sono molti soldi a disposizione. Mi scusi, le chiederei un tono di voce leggermente più alto perché abbiamo un po' di difficoltà sul collegamento con Parigi. Prego. Dicevo che appunto le risorse a disposizione sono dei vincoli molto stretti, e questo sicuramente limita la possibilità di azione da un punto di vista di interventi politici sul mercato del lavoro. Quello che noi sosteniamo è che proprio perché c'è una crisi occupazionale presente che probabilmente si rafforzerà nei mesi che vengono, c'è bisogno di ridirigere risorse verso le politiche occupazionali. Non soltanto le politiche di sostegno del reddito dei disoccupati, ma anche direi e soprattutto le politiche di sostegno alla ricerca del posto di lavoro, che sono politiche di aiuto alla ricerca del posto di lavoro, che sono politiche di formazione, che sono politiche anche di sostegno all'occupazione in alcuni casi. Perché dico questo? Perché ancora una volta l'esperienza delle crisi precedenti ci insegna che un forte aumento della disoccupazione rischia di divenire persistente. Cosa voglio dire con questo? Voglio dire che la disoccupazione rischia di rimanere a livelli alti anche una volta che l'economia riparte. I disoccupati che si trovano in una situazione di diventare disoccupati di lungo periodo, che vedono il capitale umano deteriorarsi, che si scoraggiano, alcuni di loro possono addirittura lasciare il mercato del lavoro e diventa sempre più difficile riportarli verso l'occupazione. E questo può avere anche implicazioni, se vuole, per le prospettive di crescita economica, perché l'incertezza, la disoccupazione, la mancanza di trovare giustamente un lavoro possono anche ridurre la propensione al consumo, aumentare la propensione al risparmio, vista tutta questa incertezza, e questo sicuramente non contribuisce alla domanda e quindi alle possibilità di ripresa economica. Quindi noi ci rendiamo perfettamente conto che i margini di manovra variano da un paese all'altro, ma sono comunque molto stretti. Il nostro suggerimento è, nei limiti del possibile, cercare di ridirigere risorse verso il mercato del lavoro. Le spese per le politiche che noi chiamiamo attive, quindi di sostegno alla ricerca del lavoro, di formazione e anche di sostegno alla creazione di posti di lavoro, costano, ma non costano tantissimo, e possono essere estremamente importanti per permettere giustamente che quello che è stato un aumento della disoccupazione temporanea nella fase di recessione non diventi poi una disoccupazione persistente, perché questo significa ridurre il potenziale di crescita dell'economia. E torniamo, visto che abbiamo usato l'esempio del termometro per quanto riguarda il PIL, usiamo sempre esempi di carattere medico. Insomma, contrastare la malattia, visto che la disoccupazione è la malattia, diciamo, economica, per definizione contrastare la malattia prima che si incancrenisca, prima che si strutturi, prima che si cristallizzi. Vedremo, perché, ripeto, il sentiero è molto stretto ed è un sentiero che riguarda la tenuta dei conti pubblici, perché poi qualunque paese, Italia inclusa, non si può permettere a un certo momento che il mercato delle obbligazioni, cioè di chi compra il nostro debito, i nostri bot, inizia a dire: beh, con questi conti pubblici non siete più affidabili. Questa è la vera preoccupazione del ministro Tremonti e devo dire assolutamente condivisibile. Grazie anche per il tempo che ci ha dedicato al responsabile del Dipartimento Occupazione dell'OCSE, Stefano Scarpetta. Grazie a voi. Staremo a vedere, l'intervista con l'imprenditore la rimandiamo a domani, ma ci sarà e continuerà il nostro ciclo di consigli pratici agli ascoltatori, che siano imprenditori, artigiani o commercianti. Devo dire, in tema di occupazione, che c'è un'iniziativa che sicuramente non porterà ad aumentare gli occupati, ma è un'iniziativa lodevole, nel senso che sul tema sicurezza nei posti di lavoro il Ministero del Lavoro, in collaborazione con l'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radio Cor, lancerà sul tema della sicurezza dei posti di lavoro un notiziario, una newsletter per informare cittadini e imprese sulle novità legislative e le iniziative del Ministero. Il notiziario verrà pubblicato da Radio Cor ogni mercoledì. Tante altre cose avremmo voluto farvi sentire: Ben Bernanke, Warren Buffett, ancora alcuni passaggi sull'economia della felicità, ma torniamo in diretta domani dalle 5 di pomeriggio in poi. Per ora, da Sebastiano Barisoni, a tutti voi in ascolto, l'augurio di una buona serata.